sounds good. It's getting serious on this track, man. Hey, lady, listen. This goes for all the ladies, rock ladies, love, art, paper, music, and young and old lady, rock on. If you go along with rock, inverse, dissess, adesso, spesso. Faccio un sogno di ritorno da te. Andremo in un paradiso fiscale, in un verso, un bacio diverso da quello che dai a lui. Spesso mi chiedo se vuoi e il sapore che hai. Se tra le nostre labbra oro dimmi da sé. Pure il tempo delle fragole si è fermato tra le nostre labbra alato. Se assaporo ora il tuo placebo, la miglior droga che Lucifero tra fiamme da baci e cure di flebo, ai dannati più beatificati e benedetti. Carne, musica, io faccio musica, sì, la testo, non la vesto, ma sopra sta base chic di serious beat mi vesto, tipo rockstar del sesso, ti vesto del mio testo, ti testo, ci ingarbugliamo, ci agitiamo, poi lo facciamo, sì, lo facciamo. La prima o seconda, la terza con calma, la casa è una fiamma e oramai è la reggia, tu dama, signora anche senza filigrana. Sei la luna che il demonio del denaro non compra, ma che la sua fiamma scalda per un peccato perfetto meritato da codesto verso. Ma per due note di giuste parole sussurra Eros come dolce morte. Ma che per giuste parole sussurra Eros nelle orecchie come dolce morte. La mia eutanasia, se la mia follia, la mia morte prescritta e così sia. Io un verso di sesso adesso spesso faccio un sogno di ritorno da te. Andremo in un paradiso fiscale, io un verso, un bacio diverso da quello che dai a lui. Spesso mi chiedo se vuoi il sapore che hai, se il tempo delle nostre labbra è oro di mio.